Voglio una vita spericolata, rima e voce abusata, dentro un fuoco immenso, brucia dentro battendo la spiaggia di psiche assolata. Io sono il sole in questo gioco, che se ti ricordi la mia voce sode, ovunque nel vento ti raggiunge, da vita all'immago scintilla d'immensità. Cane di razza, randagio, pulci di parole come plagio, che gratto via prendendo dal profondo, dal passato più amato, memorie di uno smemorato. Scrivo canzoni per divulgare poesia, vorrei comprare una notte d'amore con una metrica tutta mia, stile articolato di un cervello d'androide emotivo, divo del pittorico mio. Oh Dio, scrivo come se fossi un dio, vorrei spezzare la cornice perché il quadro e la vernice già bastano, nessuno può darmi una mano se non per spararmi, alla fine no? Le parole non sono armi, ricordi e le lame. La vita è una poesia maledetta che ti fa sparare dritto nella corteccia, nella testa. Tu che nel mio cuore hai fatto breccia, mentre nell'altra rimane l'amore briciola. Tu che nel mio cuore hai fatto breccia, mentre nell'altra rimane l'amore briciola, briciola, briciola. Tu che nel mio cuore hai fatto breccia, mentre nell'altra rimane d'amore briciola. Tu che nel mio cuore hai fatto breccia, mentre nell'altra rimane d'amore briciola. Rimane d'amore briciola, briciola.